Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo al Più Lab, laboratorio del Dipartimento di Chimica e Materiali del Politecnico di Milano, specializzato nello sviluppo di nuove tecnologie, di nuove tecniche e applicazioni per la stampa 3D, dove stanno mettendo a punto un nuovo sviluppo delle tecnologie additive nel settore della nautica. Parliamo di utilizzare in pratica un particolare tipo di stampante 3D che è stata messa a punto presso lo stesso laboratorio per stampare interi scafi in vetro resina. Ci facciamo spiegare tutto dalla direttrice del Più Lab, la professoressa Marinella Levi, che è in linea con noi e alla quale diamo il bentornato. Buonasera. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti. Dunque Marinella, prima di cominciare, intanto c'è una notizia che vi riguarda, molto significativa. Sì, noi veniamo da questo momento importante, un evento grande per la città, anche dove ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica, insieme a molti altri colleghi, siamo stati invitati perché selezionati insieme al nostro progetto a comparire sull'AD Index. È questo catalogo molto prestigioso dove ogni anno l'ADI, l'Associazione dei Designer Italiani, chiama e seleziona progetti rilevanti nel mondo del design. Che poi in qualche modo dà anche accesso a un concorso ben noto, forse il più noto di tutti nel mondo del design, che è il Compasso d'Oro. Assolutamente sì. Ecco, questo perché questo premio? Perché appunto voi, e qui veniamo alla puntata, avete messo a punto di fatto una nuova tecnica di stampa 3D, che è quella che alla fine consente anche di stampare scafi, o potrebbe consentire di stampare scafi interi di barche. Allora, visto che è una tecnica particolare, direi che come prima cosa ci puoi proprio ricordare un po' come funziona. La tecnologia è una tecnologia di stampa 3D, quindi di manifattura additiva, rispetto alle stampanti convenzionali alle quali un po' tutti ormai ci siamo abituati, ha la peculiarità in primis di essere gestita da un robot antropomorfo, questi bracci che ormai si vedono un po' dappertutto, che sulla punta del quale viene svolta una fibra di vetro o di carbonio lunga e continua. Come se venisse filata, no? Come fa un bacco da seta, per capirsi, proprio una cosa di questo un genere. Un bacco da seta, allo scopo di depositare questa fibra su un piano e poi via via far crescere gli oggetti tridimensionalmente. La peculiarità rispetto alle stampanti normali quindi è, primo, filare una fibra lunga e continua, secondo, stampare usando più di tre assi, come le stampanti normali usandone sei. Ecco, questo filo, se ho capito bene, poi è imbevuto, no? di esatto. Resina, per cui quello che si ottiene è un oggetto che invece di essere fatto come da una stampante tradizionale, fondendo fondamentalmente qualcosa o facendo solidificare qualcosa, voi riuscite a fare un oggetto fatto di materiale composito, quindi con dentro anche la componente del filo. Il filo è la resina che viene, questa parte liquida, e viene indurita con una luce UV nel momento stesso in cui viene depositata. Perfetto, e quindi si capisce come si fa a realizzare un oggetto in vetro resina. A questo punto voi volete utilizzare questo sistema per stampare degli interi scafi. Ecco, come si fa oggi a fare lo scafo in vetro resina di una barca e quali sono i vantaggi del vostro approccio rispetto a quello tradizionale? Allora, oggi gli scafi delle barche si fanno come si fanno da sempre, dopo il legno, quando si è passati appunto alla vetroresina. Per fare uno scafo di una barca, prima di tutto si deve costruire uno stampo pesante per le barche grandi, anche in acciaio, sul quale stampo viene depositata la vetroresina, questi fogli di vetroresina che vengono poi impregnati, sì, sì, messi sotto è un vuoto. Po' come fare una lasagna, no? Si mettono prima i fogli di fibra di vetro, poi si spalma uno strato di vetroresina, poi si mette un altro foglio e così via, no? Esattamente, poi si fa il vuoto, lo scafo, diciamo così, stampato indurisce, si toglie lo stampo e rimane lo scafo. Le peculiarità di questa tecnologia, come tutte le tecnologie a stampo, sono legate, per esempio, punto primo, ai vincoli dettati allo stampo, sono vincoli formali anche importanti, e in questo caso specifico alla peculiarità del fatto che questa distensione delle fibre a mano viene fatta ad oggi da umani d'accordo, che quindi vengono in contatto con sostanze chimiche, lavori abbastanza, certo, usuranti, sì, e sì, pesanti. Invece con il vostro approccio, con questo braccio robotico, la prima cosa che non serve è proprio lo stampo, se ho ben capito, esatto, che è un fatto significativo, spieghiamolo. Allora, in tutti i processi di stampa 3D e di manifattura additiva, la prima cosa che sparisce è lo stampo, perché i pezzi si autosostengono e non hanno bisogno quindi di questo oggetto. Questo oggetto vuol dire quindi partire dal conto economico, come si dice, con meno uno stampo. Meno uno stampo vuol dire prima di tutto molto denaro. Gli stampi possono costare da decine a centinaia di migliaia di euro, fino per le barche da competizione a milioni. E tempi di realizzazione del medesimo, quindi meno tutto il tempo di realizzazione del medesimo, e per i progettisti nautici questo è particolarmente importante, nessun vincolo formale. Per estrarre uno scafo da uno stampo, lo scafo stesso deve avere delle semplicità, certo, formali, certo, e nel momento in cui lo stampo viene meno, spariscono. Insomma, c'è libertà di progettazione, non so, pensiamo come è fatta un'auto in Formula 1, a quante alette, a luce ha, ecco, cose di questo genere non si potrebbero fare con uno stampo in una botta sola, tanto per capirsi. Esatto. Senta, per ora il vostro laboratorio ha un robot che ha messo a punto, per la precisione è incomodato d'uso questo robot, e c'è anche però un brevetto depositato con il Politecnico di Milano. Siete stati al Salone Nautico, qual è stata la reazione del mondo nautico alla vostra idea che avete appunto presentato? Dunque, per ora al Più Lab disponete di uno di questi robot per stampare in vetroresina. C'è un brevetto per quanto riguarda invece questa tecnologia depositato insieme al Politecnico di Milano, e di recente voi siete stati al Salone Nautico. Ti chiedo, Marinella, qual è stata intanto la reazione delle imprese che erano presenti vedendo il vostro robot all'opera? Dunque, la reazione è stata, devo dire, straordinaria. Noi siamo stati invitati da Confindustria Nautica, al Salone Nautico ci hanno dato un bellissimo stand che è stato visitato davvero da centinaia e centinaia di persone, prevalentemente progettisti nautici e imprenditori della nautica. Per entrambi il punto di forza più rilevante della nostra tecnologia è stato proprio subito vedere sparire lo stampo, questo certo, è il sogno di tutti i grandi progettisti. Ecco, anche perché quello è un settore in cui, soprattutto nel diporto, non sempre si fanno grandissimi numeri, quindi... Lo stampo è veramente pesante perché lo si ammortizza anche poco, no? Esatto, dal diporto fino al caso i più famosi e anche clamorosi delle grandi competizioni, dove lo stampo stampa, certo, una barca sola, vederlo sparire è immediatamente fonte di grande attenzione. Per i progettisti la libertà formale, quella di non avere più il vincolo del famigerato sottosquadra, nessun pezzo deve essere progettato in modo che sia abbia estraibile, come si suol dire, non estraibile dallo stampo. Invece qui veramente la libertà formale e la personalizzazione, voi immaginate cosa vuol dire fare, non so, uno scafo base uguale un po' per tutti, che contraddistingue una linea, ma poi avere delle personalizzazioni stampate in piena libertà, che il cliente potrebbe addirittura arrivare a immaginare e a coprogettare. Ecco, come potrebbero essere utilizzati questi robot? Avete discusso un po' abbastanza concretamente anche di questo, quali potrebbero essere le prime applicazioni? Perché appunto poi costruire un grande scafo come prima cosa difficilmente accadrà, no? Esatto, cioè difficilmente accadrà, perché per fare un grande scafo ci vuole una grande stampante, o meglio un carro ponte capace di portare il robot anche a testa in giù e far lavorare i robot in maniera cooperativa. Per esempio possiamo immaginare un robot che stampa, uno che rifinisce, che fresa, e l'altro che vernicia, cosa assolutamente facile da immaginare. Quello che manca sono i denari sicuramente in questo momento per realizzare subito. Quindi passeremo, o meglio passeranno i ragazzi che vanno sul mercato, due dei ragazzi che hanno lavorato in questi anni qui al Politecnico, a febbraio andranno sul mercato con una loro startup che si chiamerà Moi Composites, e porterà questa innovazione forte nella nautica. Prima partiranno da componenti, quindi ponte, tettucci, serbatoi, cose se vogliamo anche semplici, di non grandi dimensioni, ma dove la personalizzazione potrebbe fare la differenza, per arrivare, speriamo presto, a fare tanti denari e a fare un grandissimo primo cantiere di stampa 4.0. Oltre al settore della nautica, peraltro, ci sono diversi altri settori nei quali i compositi, non solo la vetroresina, per esempio anche la fibra di carbonio può essere utilizzata. Voi state ragionando su tutta una serie di scenari. Allora, al carbonio stiamo lavorando ancora in fase di ricerca, perché ha dei piccoli vincoli tecnologici che stiamo superando, e abbiamo fatto i primi pezzi in fibra di carbonio. Il settore che è arrivato per primo a interessarsi della fibra di carbonio è ovviamente l'aerospazio, e la, diciamo anche tutta la parte dell'automotive da competizione. E poi ultimo, ma certo non ultimo, stiamo facendo per esempio un lavoro di tesi sempre in design and engineering, che sono i ragazzi che di più popolano i più lab in questo momento, intorno alla possibilità di realizzare una protesi per piede sia da corsa che da passeggio, realizzata appunto con questa tecnologia robotica in 3D e utilizzando o la vetroresina o il carbonio.